America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Incontro al vertice Europa-Stati Uniti, un momento molto delicato, quello che continuiamo ad attraversare. A Washington si sono incontrati Barack Obama, il presidente del Consiglio Europeo Herman Van Rompuy, il presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso, e non ci sono grandi notizie, perché insomma, diciamolo, non avendo nulla da dire, visto che i due interlocutori europei degli incontri di ieri con Barack Obama possono far tutto tranne che decidere, il presidente americano ha usato così uno stratagemma a conclusione di questo vertice semestrale e ha detto: questi incontri non sono mai necessariamente drammatici, perché siamo talmente d'accordo su tutto che diventa difficile fare notizia. Beh, devo dire che non è molto incoraggiante ascoltare dal presidente degli Stati Uniti, in questo momento così delicato e difficile, una posizione così neutra. La verità è che Europa e Stati Uniti continuano ad essere su posizioni talmente distanti su come si può uscire dalla crisi dell'Eurozona da rendere inutile persino un tentativo così anche simbolico per raggiungere dei compromessi plausibili, anche perché mai come in questa fase della crisi europea il ruolo di Van Rompuy e di Barroso è svuotato rispetto ai veri centri decisionali che si trovano dove? A Berlino e Parigi. Quindi questa incoerenza europea, devo dire, ieri a Washington l'abbiamo vista in tutta la sua, insomma, diciamo così, inefficienza. Quando si diceva che l'America ha bisogno di un numero di telefono con cui chiamare l'Europa, e questo numero non c'è. Già il fatto che si presentano due persone e dall'altra parte ce n'è soltanto uno, un presidente, vuol dire che i due comunque hanno un potere dimezzato. Ecco, qualche cosa di incoraggiante, però Barack Obama l'ha detto. L'Europa sta avendo difficoltà, quindi è molto più difficile per noi creare buoni lavori qui a casa, perché we send so many of our products and services to Europe. It is such an important trading partner for us, and so we've got a stake in their success, and we will continue to work in a constructive way to try to resolve this issue. Barack Obama dice che le difficoltà dell'Europa rendono più difficile anche per l'America creare occupazione, perché l'Europa è un importante partner commerciale, quindi l'Europa non va bene, l'America non va bene. Però il presidente americano si è impegnato e ha detto che l'America farà la sua parte per cercare di risolvere il problema debitorio. Vorrei aggiungere un piccolo dettaglio, secondo me non indifferente, cioè durante la conferenza stampa che si è tenuta poi alla Casa Bianca, uno dei giornalisti ha fatto una domanda molto diretta al portavoce Jay Carney di Barack Obama. Gli ha chiesto: si dice che il pericolo che sta correndo l'euro è talmente elevato che addirittura nel giro di pochi giorni potrebbe scomparire. E Carney, invece di rispondere con una smentita secca sul fatto che si possa persino considerare un rischio di questo genere, ha semplicemente detto che l'Europa deve risolvere urgentemente i suoi problemi, dunque torniamo al solito fate presto, e che il problema è europeo e che quindi gli europei lo dovranno risolvere con le loro risorse. La situazione è ingarbugliata. Ci sono delle ipotesi di soluzione. Francia e Germania stanno negoziando per cercare di dare più garanzie al contesto fiscale. Questo accordo, se ci sarà, potrebbe giustificare l'azione da parte del governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi, un'azione di intervento che è quello che gli Stati Uniti chiedono da tempo. E di questo ne parlo con Enrico Brivio, capo degli esteri del Sole 24 Ore, ma soprattutto corrispondente da Bruxelles per moltissimi anni. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Insomma, l'Europa è al bivio ormai da mesi, però a questo punto siamo arrivati al capolinea, come si dice. Secondo te, che tipo di compromesso è plausibile fra Francia e Germania? Ma io penso che le regole alla fine le detti il cancelliere Angela Merkel, perché come ben sai la Francia in fondo è in una posizione di maggior debolezza, ha perfino paura di perdere la propria tripla A, quindi io credo che le condizioni a questo punto le stia dettando la signora Merkel, la quale però esige un cambiamento dei trattati, che si faccia a 27, che si faccia in un gruppo più ristretto, però vuole delle garanzie che ci saranno dei controlli di bilancio molto seri sui bilanci dei partner, perché non si ripetano casi come quello greco. Enrico, però cambiare il trattato e quindi cambiare le regole significa mesi, non ci sono mesi. Questo questo è il grande problema, questo è il grande problema, perché ci sono settimane. Wolfgang Munkau sul Financial Times dice che ci sono solo 10 giorni, cioè fino al prossimo vertice europeo del 9 dicembre per salvare l'eurozona. E certo, i mercati, i tempi dei mercati sono molto più rapidi di quelli della politica europea, e questo è il grosso problema. Ecco, però una soluzione di questo genere potrebbe consentire poi alla Banca Centrale Europea di intervenire in modo più massiccio, dunque la partita è importante. Io penso che se si trova in qualche modo la maniera di dare delle garanzie ai tedeschi che tutti i paesi dell'eurozona sono pronti a sottomettersi a una più stretta disciplina di bilancio, a quel punto la Merkel potrebbe dare il via libera politico a un ruolo della BCE più propositivo, ruolo che la BCE di Draghi potrebbe già a termini di trattati svolgere, ma manca per il momento l'avallo politico dei paesi con la tripla A, insomma, che sono poi un po' gli azionisti di riferimento. Enrico, io ho un'idea, poi sarà sbagliata, ma la condivido, mi dici cosa ne pensi. Non vedo Mario Draghi, governatore della Banca Centrale Europea, veder affondare l'euro, e quindi come un capitano che affonda con la sua barca, con la sua nave, se ne sta lì senza far nulla, o come l'impressione che a un certo punto possa esserci una posizione di forza e una rottura degli argini. Di questo la Merkel ne terrà conto o no? Anch'io fatico a vedere Draghi che riveste il ruolo, diciamo, dell'amministratore controllato di un fallimento dell'euro, proprio perché lo ricordo 12-13 anni fa al fianco dell'allora ministro dell'economia Ciampi in quei cruciali Ecofin in cui si doveva decidere la parità con il marco, quando Ciampi veniva con un fogliettino indicando i progressi dello spread italiano rispetto al Bund, e a quei tempi nessuno sapeva cos'è lo spread. Però penso che Draghi abbia bisogno in qualche modo di un avallo della Germania, dei paesi con la tripla A, perché da solo anche lui non può farcela. Beh, ma non è neanche nell'interesse della Germania restare da sola, perché il marco andrebbe a 2,70 contro il dollaro, l'economia tedesca rischierebbe di perdere i vantaggi di produttività che ha accumulato. Insomma, ci sono una serie di elementi che rendono così una prospettiva di soluzione plausibile, e i mercati in fondo l'hanno scontata. Ieri abbiamo visto prima l'Europa, poi l'America ha chiuso molto bene. Ecco, secondo te i mercati ieri sono impazziti oppure stanno vedendo giusto? No, c'è qualche segno, qualche spiraglio di tenue ottimismo in uno scenario che si fa sempre più buio. Io penso che, come dici tu giustamente, non è neanche nell'interesse della Germania rompere l'euro, avere dei partner magari confinanti che possono svalutare e fare una concorrenza alle proprie aziende anche in modo molto diverso da quello che accade ora nel mercato unico. Però la Merkel ha bisogno di qualche impegno da parte dei paesi diciamo mediterranei da poter esibire all'opinione pubblica tedesca, perché non dimentichiamoci che la signora Merkel l'anno prossimo deve affrontare delle elezioni e quindi deve poter far passare il messaggio che sta agendo per salvare l'euro, non per salvare un governo come quello greco che aveva truccato i conti, oppure gli italiani e il loro alto tenore di vita. Ecco Enrico, qualcuno dice, il Financial Times in 10 giorni, alla Casa Bianca in pochi giorni, che l'euro rischia di non esistere più. Vogliamo rassicurare i nostri ascoltatori? Secondo me l'euro continuerà ad esistere per un bel pezzo, tu che dici? Ma io spero di sì, e spero che alla fine il buonsenso prevalga, sia europeo, e si tratta anche dell'interesse di tutto il mondo, perfino degli Stati Uniti. Però anch'io non ho più la certezza al 100%, molto dipenderà dalla saggezza dei politici europei. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo 5 anni di silenzio, il 6 dicembre esce il nuovo EP dei 17 Evergreen, titolo Scientist. I 4 brani di questo disco si possono scaricare e ascoltare gratuitamente sul sito della band, dei 17 Evergreen Angels. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.